mi fate parlare. E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati. Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma è tua. Chi l'ha detto? Maurizio, ma scusami un attimo, perché? No, no, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? La propaganda della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? Fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Fare certo che fai cagà proprio delle, fai dei rilatti alla ginocchia. Quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro. Mamma, fai paura proprio, pare. Aiutatelo! Siete quasi brutto, curto e brutto. Un abbraccio, caro Palenzo. La minoranza silenziosa. Anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. Chiamo per quel cretino che si è permesso di chiamare ieri sera dicendo che noi utenti, o meglio ascoltatori, dobbiamo ribellarci a questo modo di fare radio. Oh, pezzo di deficiente, se non ti piace cambia canale, ascolta quelli dei cani, quell'altro che va a correre dalla mattina alla sera, metti Radio Maria, metti Radio Padania, Radio Calabria, ma soprattutto non ci rompere i coglioni, questa è la zanzara. Questa è la zanzara. E niente, volevo dirti solo una cosa, per tutti coloro che chiamano Palenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo, mantecato di merda. Ciao Giuseppe, sono Fabio Bulgaria, puttane case no, ti ricordi? No, ma volevo dire un'altra cosa, mi stavo solo presentando. Allora, io voglio dire, Palenzo, tu sei la prima puttana. Sei la prima puttana mediatica della televisione italiana, tu caro Parenzo, perché tu di base non sei un cazzo, sei in grado di leggere un libro, ti vendi benissimo. Ti vendi benissimo. Sei la prima puttana mediatica, mediatica della televisione italiana. Allora voglio chiedere a Parenzo, te la ricordi la tua prima raccomandazione? Sì, sì, sì. O no? O no? Allora ragazzi, siamo allora, qui. Ragazzi, che c'è? Sono, che c'è? In questi sei minuti, quattro minuti, pardon, di trasmissione, sì, sono sì. stati commessi più reati di quanti non ne abbia commessi Saddam Hussein nel corso della sua reggenza dell'Iraq. Cosa è successo? Questo ti voglio dire. Cosa è successo? Una quantità di reati sono stati commessi, diffamazioni, parolacce, invettive. Proprio è un concentrato. Dici quanti reati? È impossibile. In quattro minuti. Ma questo devi ringraziare la corte. Cioè è il regista, la corte, il primo che deve essere processato. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti. Allora fammi riprendere sin dall'inizio, sì, no, allora, però fammi... in quattro minuti sì. reati a go-go. Allora ragazzi, cosa è successo a Pisa sì. ieri sera mentre eravamo in onda? Un signore, un gioielliere che si chiama Daniele Ferretti, 69 anni, sposato con figli, già vari furti subiti, assalti. Nel 99 addirittura era andato in ospedale, ricoverato in rianimazione, si era salvato per miracolo, lo avevano accoltellato. Ripeto, 69 anni, Daniele Ferretti, siamo tutti con lui a spada tratta. Questa trasmissione, eccetto Parenzo, è con ma cosa, Daniele ma cosa Ferretti. Vuol dire stare con Ferretti? Aspetta cosa che vuol ci dire? Arrivo, aspetto, aspetta sì, che ci arrivo. Dire allora, niente. La realtà è questa. Siccome è stato ufficialmente indagato per omicidio, per è stato ufficialmente indagato per omicidio, evidente, è morto per l'unico motivo che ha sparato, pare, sei colpi di pistola. Ma certo. Un colpo ha centrato a morte uno dei ladri che si erano introdotti nel suo negozio. Ma sarebbe stato comunque messo. Allora, ragazzi, la realtà è questa: a me non me ne frega nulla. Due colpi, tre colpi, quattro, cinque, legittima difesa. Erano dentro il suo negozio questi signori ladri? La risposta è sì. Hanno minacciato pistole, ma anche se non l'avessero fatto. Ma diciamo, erano dentro il negozio pistola in mano? Sì. Ha sparato, sì. Chiuso, finito, la vicenda finito, è chiusa, così. Finita. Il nuovo codice penale secondo Cruciani. No, secondo Cruciani, secondo la logica sì, normale. Secondo Salvini, anche nessuna per carità di Dio. Inchiesta. Dopo il codice giustinianeo abbiamo il codice sì, esattamente, Crucianeo. Crucianeo, aneo, che dentro c'è anche chissà quale altra parolina. Dopo il codice giustinianeo abbiamo il codice Crucianeo. La realtà Crucianeo. È molto semplice. Sei Pensa entrato nel mio negozio? Sei entrato dentro la gioielleria? Sei follie, entrato dici. Dentro l'oreficeria? Bene, pistola in mano? Sì. Ti hanno ammazzato? Basta, chiusa lì, finita, chiusa siete, la vicenda. Siete pazzi, tutto il resto sono problemi e purtroppo, e dico purtroppo, un morto. Purtroppo, in realtà un ladro è morto, non piango. Oggi non piango. Tu piangi? Tu piangi ma per un piango, morto? Non lo conoscevo, la verità, è un ladro, piangi per un morto? Ma piangi? No, ma sarei ipocrita, ma piango, io piango per la morte del diritto quando sento queste la cose. Morte del oltre diritto. A quel morto cos'è lì, un diritto? È morto cos'è? Il diritto oggi, ma perché che... quando sento questi discorsi oggi muore il diritto, ma che quando muore io il diritto? Sento ma che dai. La persona che ha sparato seppur ha subito una rapina non deve comunque. Essere indagato. Stai facendo morire il diritto. Sì, è morto il ladro, tu fai morire il diritto, Centinaio. Lo stato di diritto. Sentiamo il signor Centinaio da te stamattina. Il gioielliere ha fatto bene. Questo gioielliere ha fatto bene. A noi non va che venga indagato e venga sottoposto al giudizio di un giudice e quindi che il giudice abbia in mano la vita di questa persona. Allora, tre filetti che è, credo, dei consumatori. Che cazzo fa tre filetti? Sì, Federconsumatori. Federconsumatori, un'altra delle tante associazioni dei consumatori. Signor Trefiletti. Sì, che mestiere fa il signor Trefiletti? Vedi, tutti i consumatori. Sì, ma nella vita, che mestiere fa? Ha lavorato nelle imprese, adesso è a capo di questa ottima associazione, di cui fa il presidente. Oh, Trefiletti. Ma ho capito anche di ripetere il nome. È una persona molto per bene. Sì, assolutamente. Signor Cruciani. No, ma siamo per bene. Il signor La Corte. Non ho mai capito che mestiere. Non ho mai capito mai cosa fa La Corte. La Corte fa il regista radiofonico. Però mette insieme audio, invettive, ecco, e Trefiletti difende i consumatori e farà un esposto contro questo signor La Corte. Trefiletti, che mestiere fa nella vita? Che fa? Trefiletti, poi sempre incazzato, so, è sempre incazzato in televisione. Parte sempre in quarta, questo è vero, qualunque cosa. Senti che ha detto questa storia, senti. Se io sono un gioielliere e viene dentro un malfattore, io non dirò mai a quel gioielliere difendi il tuo diamante, daglielo pure, no, ma no. Chi sa... Ma aspetta, scusa, fammi ma finire. Questo ha difeso la moglie, fammi questo finire. Voleva sposare alla... Questo fammi voleva sparare finire. Alla moglie. Ma no, ma certo. Alla deve... moglie voleva sparare. Io no, non io lascio perdere questo caso, sto facendo una discussione di carattere generale. Ma noi cosa facciamo? Ci stiamo abituando che la legittima difesa significa rischiare anche la propria vita per che cosa? Per un diamante? Per un patrimonio? Per una proprietà privata? Cioè, ma cominciamo a ragionare in maniera diversa. Chi se ne frega del diamante? Ma è impazzito Trefiletti. Trefiletti dice bisogna consegna tutto e non sparare. Ma è impazzito? È impazzito Trefiletti. No, il diamante ragione. È come una vita per alcuni. Sì, ma ha detto per una un sacco cosa di gente. Buon senso, non ha detto una cosa di buon detto senso. Una cazzata. Il diamante lo recupera. Ha detto la vita, una cazzata. No, capito? Ma cosa vuol dire? A me hanno insegnato a casa mia che gli oggetti si possono volendo ricomprare. Le vite umane no. Quindi bisogna avere rispetto per le persone e per le ma cose. Ma cosa c'entra? Anche, non c'entra niente. Ma mettendoli su un piano diverso. Ma quindi non c'entra nulla. Un bene. Spesso non... i beni equivalgono a una vita. Che se uno poi non incassa e perde, non sarà il caso di quel gioielliere. Certo. Ma se uno non incassa, poi resta in mezzo a una strada. Se uno perde bene, il d'accordo. Bottino, per dire, se uno perde la roba che c'è dentro il negozio, questa roba qui è una roba gravissima anche per la vita, per la salute. Uno entra in depressione, si ammazza. Allora, adesso, che dice Trefiletti? Cosa dice Trefiletti? Dice una cazzata. Trefiletti, è una cazzata. Spesso. Le cose che ti appartengono sono come la tua vita. Allora, voglio sottolineare una cosa. La signora Virginia Raggi, sindaco di Roma, che adesso dice che non vuole più migranti a Roma. Benissimo, sì. Secondo me. Anche se pare che sia previsto l'arrivo di 2000 persone. Sì, no, il Viminale ha già detto: se mettiti il cuore in pace, cara, perché arrivano 2000 persone ti aspettano. E dunque adesso dice basta migranti a Roma. Solamente nel dicembre 2016, dunque alla fine dell'anno scorso, dunque sei mesi fa, sostanzialmente la signora Raggi scriveva su Twitter le seguenti parole: i rifugiati sono nostri fratelli. I rifugiati sono nostri fratelli e sorelle. Roma accogliente farà la sua parte. Ora, ragazzi, non è che uno può cambiare, per carità, va benissimo, tutto quello che volete, eccetera. Però qualche mese fa dicevi un'altra cosa. Come mai adesso dici esattamente l'opposto? Non è che è cambiata la situazione di Roma. Lo dici per un tornaconto elettorale. Cioè, almeno la Lega e altro dicono da sempre, no? Cioè, sì, e questo si deve dire. Cioè, ti faccio sentire la Raggi quando dice... No, ma trasformiamo l'immigrazione in risorsa. Senti, trasformiamo l'immigrazione in risorsa. Questo mi sembra sempre giusto. No, ma lascia perdere. Prima dicevano questo, adesso dicono basta migranti. Stiamo cercando di trasformare questo, che viene generalmente inteso come un problema, in una risorsa, perché sono persone. Capito? Io li chiamo i cercatori di felicità, quindi sono... Cugiali, a guardare i piedi pensaci te, che io mi guardo un po' due culi. La Zanzara. Naturalmente. La Zanzara senza Parenzo diventerebbe una Radio Padania 2.0. Supporta anche tu la maggioranza silenziosa. Bah. Okay. Allora sembra che a Gorizia abbiano fatto una specie di retata per ingabbiare qualche cinese che aveva trasformato i centri massaggi in postriboli. In luoghi di prostituzione. Di malaffare, luoghi, allora, dove c'è del sesso a pagamento, ragazzi, porcherie. Libertà di Pippa. No, vabbè. Libertà di Manina. Vabbè, questo, fatela a casa tua. Libertà di sega cinese. No, vabbè, ma che c'è? Questo è lo slogan. Questo è lo slogan. Di chi? È il mio slogan. Lo slogan che andrebbe affisso ovunque, capito? Allora chiudete tutti i centri massaggi cinesi, sì, in tutta Italia. Legalité. Cioè, praticamente Parenzo vuole distruggere una parte dell'economia italiana importante, fondamentale. Ma certo. Questi pagano le tasse fino a prova contraria. Vanno chiusi i centri massaggi cinesi. Vanno chiusi laddove c'è l'happy end. Ma quando mai? Nei luoghi nei quali si manifesta l'happy end, quello si chiama happy end, va chiuso perché è prostituzione. Ma di che stiamo parlando? Bisogna elogiare questi centri massaggi cinesi come luoghi di sfogatoio. Pagano anche le tasse, magari qualche evasione la faranno pure. Altro. Certi soldi poi magari li mandano in Cina, non lo so. Ma sono fondamentali. Comunque, è una porcheria, sono di una tristezza. Ma quello chi se ne frega? Ma mica ci devi andare tu. Ma mica ci devi andare. Ma non ci devi proprio, andare tu. Dai, ma lasciaci andare chi ci vuole capito, andare. Ma ho capito, ma tutto assisti Mauro da Manto, andando a libertà di Pippa. Libertà di Pippa. Gente squalida, come fai a pagare per farti procurare del piacere? Ma chi se ne frega? Ma quello piacere. Lascia perdere, ma non è affar tuo. Non è affar tuo, non ci vuoi andare. Non ci vuoi andare, non ci andare. Poi mi chiedo, ma c'è un colloquio con queste ragazze? Magari una discussione con le massaggiatrici cinesi? No, non lo so. Che poi ne fanno la sega, ma che sei impazzito? No, ma chiedo, dico, ma qual è il colloquio? Uno scambio anche culturale in cui si la puoi invitare a cena dopo la signorina? Non lo so. No, no. Mi sembra tutto così. Ma lascia perdere, non ci vuoi andare? Non ci andare. Ma perché chiuderne uno? Magari... Perché è un reato, è una porcheria. Chi se ne frega, ma i reati si consumano ogni giorno in tutta Italia, nessuno interviene. È pieno di centri massaggi a Milano, a Roma, eccetera, dove fanno seghe e cose di questo tipo. E nessuno interviene, perché chiudere quei poveracci a Gorizia? Dai. Poca figa massaggio. Sì, questo accade, capito? La realtà è questa. La realtà è quella che abbiamo sentito pochi giorni fa. Fammi sentire un attimo. Poca figa massaggio. Ecco, questo avviene, capito? È una porcheria. Ma sarà una porcheria, ma perché chiudere? Ma è inaudito. Perché è un reato? Perché sono dei bordelli legalizzati praticamente. Mauro, ma senza provincia una legge di Venezia, le... dai, iniziamo. Apriamo. Sì, io sono un gioielliere. Sì, ottimo. Se mi capita una rapina, io lascio il diamante. Sì. Poi però vorrei un rimborso da signore Trafiletti, Trafiletti. Come un trafiletto. Abbiate rispetto. Si deve vergognare, Trafiletti, per quello che ha detto. Si deve vergognare. Hai detto una cosa di buon senso, cioè lascia la roba e salva la vita. Si deve vergognare. Ha detto Trafiletti, lascia la roba e salva la vita. Una cosa umana, normale, anche banale se vuoi. No, si deve vergognare. La roba è importante quanto la vita. Ma non c'è dubbio. I propri averi spesso sono importanti. Gli oggetti li recuperi, le persone no. Questo è il punto. Si vergogna. Ma te lo dice un gioiello qui. Mauro, quando ha sentito quella parola di Trafiletti, cosa ha sentito? Nervoso. Come? Nervoso. Ah, nervoso. Lei è venuto nervoso, sì. Vabbè, io ero un ex di Zancam, quindi capisco. Non auguro a nessuno, solamente l'esperienza. Cosa? Anche che vada. Di una rapina. Lei ha subito rapine? Ho subito rapine, sì. Quante? Un paio. Un paio. Un punto con destrezza e una rapina. Ma lei non ha un'arma? No, perché non credo di avere la coscienza di usarla. Quindi ammiro da un lato il giudiziere che ha parato. Mica è un obbligo. No, cioè nessuno dice che deve essere un obbligo. Non la vuole usare, non la usa. Però non mi sento di crocifiggere chi ce l'ha. Assolutamente. Luca da Bari, grazie Luca. Io vi racconto la mia esperienza. Io sono a favore del gioielliere, farei anche una sottoscrizione. 7 anni fa, il 18 dicembre, intorno alle 18, mentre ero in casa, in tavernetta, sono entrati 2 rumeni al primo piano. Io non ho chiamato la polizia, siccome io faccio da 26 anni arti marziali, ho tolto la corrente e li ho affrontati. Dopo 1 ora e mezza ho chiamato i carabinieri. Che hai fatto? Scusa, hai tolto la corrente? E li ho affrontati. E perché hai tolto la corrente prima? Scusa, non ho capito. Perché non volevo farli vedere loro. Ah, ho capito. Al primo piano. Ah, no, per capire, cioè, se no non capivo. Cioè, addirittura hai tolto la corrente, dunque hai fatto un'operazione quasi, no? Da persona addestrata. Un trauma cranico, gli ho rotto 6 denti. Ottimo. All'altro gli ho rotto 3 costole. Come ottimo? Ottimo! Cosa vuol dire? Ma non c'è da fare. Ma non si può nemmeno picchiare un ladro? Ma non si può nemmeno picchiare uno che si introduce nel non si può fare l'ultras. Ma no, lo dico a Cruce. Intanto stia zitto, lei è maleducato. Maleducato, Rambo. Rambo de Noaltri. Fammi sentire almeno. Allora hai spaccato i denti a uno, poi. Ma figurati, si vanta. Si vanta per fare il ganzo davanti a non è nessun problema, nessuna fidanzatina, una ma moglie figurati, e 2 figli, una moglie di 47 anni. Ma scusa, ma tu perché devi andare in casa tua? Perché fai ganzo, fai ganzo, parlare così, fai ganzo. Poi ieri vediamo. Ho vabbè. Spaccato uno la faccia di signori, un ladro, sai cosa fammi sentire, allora Luca. Uno di questi signori si è venuto poi a casa, mi ha aspettato con un coltello e quindi gli ho dato il resto, nel senso che quando è che si è presentato l'altro? Una storia credibile. Dopo 42 giorni. Dopo 40 è tornato uno e ha cercato di assalirti? Sì, sì, con un coltello, mi ha aspettato fuori alla villa, è tutto documentato, anche se c'è caso di giornale. Tutto documentato. L'ho affrontato. Sì, l'ho affrontato a mani nude magari, no? A mani nude? Sì, a mani nude, perché io è incredibile. E poi chi c'era? Tuo cugino, anche chiamato pure no, il cugino? Mio cugino, mio cugino. Vabbè, allora ti hanno denunciato? Certo, adesso è un processo. Un processo. No, ma questa storia è vera? Tutto da solo. Cercate su certo che è vera. Allora, cosa dobbiamo mettere? Quali sono le parole chiave, diciamo? Rapina in villa. Rapina in villa, ce ne saranno 800.000. Dai, rapina in villa. Datemi una mail, vi mando tutto quanto. Benissimo. No, manda 393-71-71-701. WhatsApp, dai. 393-71-71-701. Comunque, mamma mia. Ma allora, ganzo, come, il processo come sta andando? No, tanto non si sono presentati, sono spariti. Ah, certo. Ma qual è il problema? Non si può picchiare un ladro dentro casa, David? No, siamo arrivati sì, alla follia. Ma è il modo, è la modalità che mi fa sorridere. Ma che ti frega a te di come Rambo, Luca? Che telefono? Che ti frega dice, a te? Che ti frega a te? Li ho sconfitti a mani nude. Dai, ragazzi, sei contento di averli picchiati, Luca? No, io sono contento di essermi difeso. Vabbè, quello certo, ma chiunque sì. Chiunque sia. Ma perché, gli devi rompere i coglioni a Luca? Perché no, gli devi mi state antipatici voi che fate questo rispondi elogio, tu, Luca, questo tu, elogio lei. Assurdo di una cosa. Lui si è difeso benissimo. Rispondi te, c'è Luca, ti prego. Sì, non credo. Se avessi trovato 2 persone a casa tua tu sei intervenuto al primo piano, cosa facevi? Avrei chiamato la polizia, non lo so, sì, ma non mi sarei messo ad ingaggiare una battaglia. Dai, cosa ti fanno facevi? Un culo così prima, dai, su, basta con queste stronzate, chiami la polizia, dai, su, ma chi sei? Ma avrei avuto paura, ovviamente, anche, mi ma sarei difeso come chiunque. Come si chiama? Chi sei, deputato lì di sciolta civica, dai? Librandi. Librandi, dai, ma, su. Ma vabbè, parla giusto per dire qualcosa, la prossima volta ti invito nella mia villa e ti faccio vedere sì. Che cosa no, hanno fatto degli indagri in 45 minuti. No, non vengo. Ciao, ciao Luca, ciao, fermi tutti. Non vengo. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Nella roba pazzesca, sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai, cana, non ce l'hai, cana, non ce l'hai, niente non ce l'hai. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacco i coglioni, hai capito? Giuseppe, tu l'hai combinata veramente, veramente grossa. Ero su una di queste app di dating online che poi servono solo a scopare, nessuno cerca una cosa seria, o almeno credo. E c'era una ragazza che aveva postato una sola foto che ritraeva i propri piedi. Io normalmente l'avrei ignorata, ma dopo lo straordinario elogio delle estremità che hai fatto l'altro giorno, mi sono sentito in dovere di metterle il cuoricino e uscirci. Un cesso a pedali. Luciani, ti devo dire in confidenza che la mia ragazza ha una caratteristica particolare nei piedi, il cosiddetto piede greco, con il secondo dito, quello subito dopo all'alluce, più lungo dell'alluce stesso e più lungo di tutte le altre dita. Beh, amico mio! Amico mio! Crucianz, un appunto molto importante per te. Nei carismi che ti hai delineato del piede, hai mancato di parlare dell'arco del piede. Errore capitale, ti prego di ammetterlo nella puntata di domani e dunque riportare questa telefonata. Ti ringrazio, errore madornale, ritorna a settembre, male, è quello, è tutto lì nell'arco, perché nell'arco si sviluppa la posizione sessuale. Ciao, saluti a Ricchione. Allora, francamente non capisco, l'arco del piede è fondamentale. Io no, Ricchione sarei io. Non lo so, sì, può essere, sì, può essere. Io non ho mai detto, non ho mai detto che l'arco non ha una funzione fondamentale. Cioè la forma del piede è tutto, anche l'arco, per carità. Se ho omesso questo dettaglio, mi correggo. Certo. No, mi corrigerete, diceva uno molto più importante del sottoscritto. Se sbaglio mi corrigerete. Esatto, ragazzi, l'arco del piede è fondamentale, mi pare evidente che è fondamentale. Cioè, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, però qui si, quando si parla di forma coerente, si parlava anche di quello. Comunque, ragazzi, ci sono degli sgorbi in giro che non hai idea da questo punto di vista. Non hai idea. Lorenzo da Pisa, vai Lorenzo. Chiamavo solo per riportarvi una testimonianza, perché sì, per darvi un po' la sensazione che c'è in città. Ora si stanno schierando populisti a favore, contro il povero Ferretti. Ma contro chi, scusami? Chi è contro Ferretti? Non ho capito. Contro Ferretti c'è qualcuno che si muove. Stiamo parlando del gioiere di Pisa che ha sparato e ucciso, e ucciso a un rapinatore che si era introdotto armi alla mano nel suo negozio ieri sera. No, vabbè, un cazzo. Armi alla mano nel suo negozio. E non capisco chi possa essere contro. Chi è contro? Spiegami. Allora, c'è due fazioni. Sapete che Pisa è una città rossa storicamente, però ci sono due fazioni che si schierano al di là della bandiera politica. Chi dice che ha fatto bene, chi dice che ha fatto male. Io vi posso solo dire che ora abbiamo sentito la storia del Ferretti, ma in questa città potrebbe essere fatto quotidiano, di cronaca quotidiana. I miei genitori hanno uno sportello al pubblico, quindi gira qualche soldo, ma niente di che, e due volte sono entrati nel giro di 2 anni con un fucile a canne mozze. Ecco, poi ma tu lo conosci Ferretti? Sì, come cliente sono andato parecchie volte di una persona normalissima, ma vi dico, quello che a me dà fastidio in tutta questa storia è che i pseudopolitici che ora sono alla ricerca di più o meno notorietà schierandosi contro, a favore e quant'altro, se avessero a svegliare prima, conto prima di che questa non è la città di Hansel e Gretel, è una città normalissima come tante altre. A te interessa il fatto che questo sia morto? Il ladro? A me interessa assolutamente, non mi permetto di giudicare perché... Non lascia perdere il giudizio, cioè piangi perché è morto il ladro o non te ne frega nulla? No, non mi tocca la cosa, nel senso... Ragazzi, ma è normale che non interessa nessuno, ma è normale, non bisogna essere fascisti, xenofobi di destra, salviniani, dire a noi della morte del ladro ma non frega il tema. Un cazzo. Ma voi dovete preoccuparvi della morte del diritto, che è quello ma che ce ne frega del diritto a noi, perché nel momento in cui voi criticate il fatto che è un atto dovuto, che il gioielliere che ha sparato venga sottoposto, come dire, a un'indagine per capire come sono delle cose... Andrebbe prosciolto in 3 giorni, voi volete la morte del diritto, civiltà occidentale, di tutte le conquiste democratiche che ci sono state in questi anni. Mai? Cioè ma che quando c'è un morto le indagini si fanno. Ma sì, niente. No, non c'è da chiedere. No, chiusa, non c'è da chiedere. No, avrei una domanda per Parenzo, allora vorrei capire. Non la può fare. Abbiamo deciso che non può farla. Ma non è vero. Ma non è vero. Vai, Gigi. Non può fare domande. Vorrei sapere, ma secondo lui non sarebbe poi giusto tutti questi pseudo personaggi, come dicevo, che ricercano la notorietà dietro questa storia, a dire, ma non sapevate fino ad ora che è una cosa che può succedere in qualsiasi momento? Perché vi inviterei a prendere una birra con me a Pisa e a vedere cosa succede dopo le 10 alla sera. Ma tutte queste persone che sono chi non ho capito, tutti questi politici, cioè guardate a vedere cosa ha fatto il sindaco di Kashna, le dichiarazioni che ha fatto, si schierano, non si schierano, ma si svegliassero prima e venissero a vedere qual è la situazione. La gente Renzo è da stanca. Luca, vai Renzo da Luca, la gente vai. È stanca, la gente... Renzo, pronto? Dimmi. Sì, buonasera. Io innanzitutto volevo dire attenzione anche al signor Parenzo, perché si va a finire su praticamente istigazione a delinquere, perché cioè? Quando si viene semplice, perché quando si viene a giustificare dicendo io il brillante, il diamante lo cedo, perché se ma no si rischia la vita, questo. La vita praticamente è più importante, beh allora io vengo a suonare il campanello alla gioielleria e dico buonasera, questa è una rapina, me le dai i gioielli? Oh sì, venga, tenga pure, arrivederci, grazie, alla così? Prossima ma volta. Ma che farsa è? Cioè ma se farsa tu dici, se io come delinquente so che non rischio nulla, perché praticamente quando nessuno mi può praticamente controbattere con un'arma o con nessun tipo di difesa, è ovvio che... Cioè tu stai dicendo che Trefiletti ha istigato a delinquere, non ho capito. Sì. Trefiletti istiga alla delinquenza, perché sostanzialmente alla delinquenza. Perché dici se si applicasse il suo principio uno si dovrebbe arrendere, dunque in questo modo facilita i ladri, giusto? Ma cosa dici? Infatti. Ma ormai siamo alla follia più totale, cioè, no, ma poi c'è anche un secondo punto, signor Parenzo, lei si contraddice perché non tiene atto della paura, l'ha detto anche lei prima, la paura dà delle reazioni che praticamente sono imprevedibili. Anche un soggetto tranquillo come lei, se si trovasse in una situazione di pericolo, potrebbe avere una reazione che non se l'aspetta nemmeno lei, come potrebbe essere proprio quella di uccidere una persona perché preso dalla paura. Va bene, Luca da Padova, dai Luca. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo dire, per la prima volta penso appunto un sindaco, un'autorità, ha scritto a un'altra autorità riguardo gli immigrati, nel senso che come la vedo io, di avere il coraggio, non essere sempre a 90 gradi, dire sì signore, sia tutti a tutto. Ma è chiaro che la Raggi si è contraddetta rispetto al passato. Adesso non vuole più i migranti perché probabilmente sente odore di elezioni, devono recuperare un po' di terreno e dice che non vuole più i migranti a Roma. Ma diversamente, nessuno è razzista, però diamo la dignità di chi accogliamo. Se io non posso accogliere... Ma lascia perdere i principi generali, non me ne frega nulla. Noi stiamo parlando del fatto che la Raggi è in contraddizione o no con quello che ha detto prima? La risposta è sì, che non fotta niente agli elettori che poi voteranno a favore della Raggi, però, lo stesso fuori dai limite, è un punto di vista, c'è un limite a tutto, voglio dire, va bene l'accoglienza, va bene cosa, però voglio dire non vedo, cioè non è dignitoso neanche come si vabbè, si Antonio da Bari, dai, Antonio da Bari. Antonio? No. Dimmi Antonio, dimmi. Sì, volevo fare una domanda, giusto a Parenzo, dimmi, vai. Per quanto riguarda le rapine. Parenzo, senti, fammi capire una cosa, ma se qualcuno è entrato in tua casa tua quando non ci sei tu? Ecco, ma è nuova questa domanda, eh? Ma è una domanda che non mi ha mai fatto nessuno, guarda. Cosa devo dire? Cosa rispondo? Niente, non sono armato. Non tua moglie e tua no, no, no, armi, non sono armato, non so che cosa farei. Chiamerei la polizia, mi barricherei in una stanza, salverei i miei figli. Non lo so cosa fa. Ma senta, nel frattempo le stuprano. Ma non lo so, non lo so. Ma proverei, ma stai scherzando? Proverei, ovviamente, ovviamente, proverei. Un attimo, scusa, chiamo il carabinieri, potete aspettare. Ma non dire, non so cosa farei come la maggioranza delle persone che non sono armate, come la maggioranza delle persone. Sì, ma chi spara? Chi spara non è un assassino. Chi spara e ammazza un ladro perché sta aggredendo la moglie, perché è entrato dentro un negozio, è una persona per bene, non è un assassino, non è un pistolero, è una persona per bene che si difende e difende il proprio patrimonio. Dunque, a questa persona, difende la propria famiglia. A questa persona non devono rompere i coglioni. Sarebbe solo stuprare le proprie donne. Capito? Ecco che... Ma a me, lei sta bene di salute, sì. Da parte. Penso, ma come si fa a dire una roba simile? Ha detto che faresti stuprare le tue donne. Ho capito cosa ha detto sto matto, ma dice una sciocchezza mega galattica, allora, madornale. O ci armiamo tutti. Ma cosa faccio? Premesso che le ripeto, io non ho armi né mai l'avrò, perché ma non ho... faresti di tutto per difendere le tue donne. Ma è evidente, anche no? Anche uccidendo, penso che uccideresti per ma difendere pensi, le tue ma donne. Ma certo, ma è chiaro che allora mi difenderei, no? Ma poi non andrei in televisione. Senta, ma che c'entra la televisione? Poi non andrei. Senta, poi io se... io spero che non ti succeda mai. Però volevo vederti in quella situazione. Sì, ma non ho capito spero cosa cambia. Non ti succeda mai. Qual è la sostanza? Guardi, che se uno uccide per difendersi, viene 9 su 10 scriminato, cioè giudicato. Sì, assolto, non... ma non è così la storia. Certo, anche prima non passa un calvario, spesso. Prima passa anche un calvario. Non rinviato. Fermo ma cosa lì, volete voi? Cioè, volete che vogliamo non sia... che non gli rompano i coglioni. Chiaro? Ma nessuno rompe io i coglioni. Io voglio così, io vorrei così. È una roba di sinistra questa, non di destra, di sinistra. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani. Ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Emilio Fede deve morire di fame. Bastardo! Porca la puttana, è andato a fanculo! Che cosa ne pensi di Lorenzo? Che è un coglione. Ucciali, a guardare i piedi pensaci te che io mi guardo un po' due culi, va? Amico mio genovese, è scontato quello che hai detto. Mi dispiace contraddirti, ma è abbastanza scontato guardare il culo di una donna, eh? Cioè i piedi è una no, cosa molto più raffinata, te lo dico io. È molto più raffinata. Sarà anche animalesca, ma è raffinata. E te lo dico io che certo non mi picco di essere raffinato. Guarda, non me ne frega nulla di vantarmi di essere raffinato, probabilmente perché non lo sono. Ma guardare i piedi è molto molto meglio. Culo è scontato, lo si può guardare sempre. I piedi sono una cosa un po' più nascosta. Un po' più nascosta. Allora, leggo oggi da qualche parte che la signora Brambilla, che ieri Fede ha definito un animale, che sì, Berlusconi ha preso e ha utilizzato come portaborse degli animali, e ha detto anche che gli sta sulle palle, però quello affari del signor Emilio Fede. La Brambilla, che probabilmente pensa solamente alle bestie e agli animali da un po' di anni a questa parte, è anche presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia. Commissione Bicamerale per l'Infanzia che a mio parere non serve a un cazzo, andrebbe abolita come molte commissioni, a nulla, zero, totale. Non serve a nulla, ma al di là del fatto che non serve a nulla, le presenze della signora Brambilla sono ridotte al lumicino. Ecco, questo al lumicino. Altro, cioè non si è mai vista alla Commissione per l'Infanzia. Probabilmente ha scambiato i cani per i bambini, perché per lei pari sono, cioè, posso immaginare solo questo. Si occupi più dei bambini normali, cioè dei veri esseri umani e non dei cani. Vada in Parlamento a fare il suo mestiere, vada in Parlamento perché è pagata per quella, sì, e non per essere la portavoce degli animali. Questo è giusto. E Poi devo dirti la verità, Parenzo, in quale paese abbiamo un candidato sindaco in corsa per il ballottaggio, come succede a Trapani, indagato per corruzione? Si chiama Fazio, ne hai parlato in questi giorni. Fazio, solo esatto. Noi, solo in Italia, e, è una specialità. No, ma dice anche di non votarlo. Sì, bellissimo. Cioè, dice anche non stupendo, mi votate, stupendo, non mi votate. Cioè, l'Italia è l'unico paese in cui c'è un signore che è candidato sindaco, è indagato. Per carità, Trapani quindi non è una specialità, ecco, non è una specialità del signor Fazio a livello politico, sto parlando, a livello politico. Pare che adesso si voglia dimettere anche da consigliere regionale questo Fazio, e comunque dice ai suoi elettori, non mi votate. Inviterò, diciamo sì, i miei concittadini a non votarmi. Perché ti fa impazzire questa cosa? Mi diverte poco. Da una parte mi manda i matti, dall'altra mi diverte da morire. Mi manda i matti perché sono andato in Italia, c'è un paese in cui questo qui è indagato, poi viene messo in carcere, ai domiciliari, fa la campagna elettorale ai domiciliari. Nonostante questo, i cittadini lo votano. La colpa non è di Fazio solo, ma anche di chi lo vota. I cittadini lo votano. Ma questo mica è condannato, però, non è condannato. No, ma per carità di Dio, va al ballottaggio e fa la conferenza stampa dicendo: sono candidato, non votatemi. È una cosa meravigliosa, ammetterai. Sì, no, è meravigliosa, assolutamente, ma è l'Italia, ragazzi. Ragazzi, è irrecuperabile, per alcune cose è irrecuperabile. Allora, ma vi pare a voi che il presidente della Camera, l'abbiamo già detto ieri, lo ribadisco ancora una volta perché pare che ci siano delle novità, che il presidente della Camera dei Deputati, la signora Boldrini, dice che ce l'abbiamo con lei, signora Boldrini, si occupi di cose Boldrini, più importanti, di tagliare, no, presidente Boldrini, occupati di tagliare qualche nastro, di fare qualche inutile discorso, che ne so, sulla storia italica, su qualsiasi cosa. Perché devi andare a rompere i coglioni in un piccolo paese nel Mantovano, a Sermide, dove con 334 voti una signorina di nome Fiamma, una bella ragazza di 20 anni, Fiamma Negrini, è stata eletta al consiglio comunale. Non sei tu a decidere. Questa ha passato il vaglio, questa lista che si chiama Fasci del Lavoro, ha passato tutte le possibili commissioni. Ma tu che sei uno che dice la legge, eccetera, in questo caso non va bene la legge? No, che non va bene. Non se ne occupi la Boldrini, si faccia del affari tuoi. Bisogna ringraziare la Boldrini che ha sollevato il tema. Allora, il padre, da noi intervistato l'altro giorno, il signor Claudio Negrini, è alta brava persona. Che cosa ha detto? Sentiamo. Diciamo che il mio ideale si ispira alla Repubblica di Salò, ecco, la Repubblica, ai 18 punti della Repubblica Sociale. Beh, insomma, lei è fascista. Io ho letto dappertutto che lei dice: io sono fascista, non lo rinnego. Ma cosa vuol dire essere fascisti? Allora, se per fascismo intendiamo certe cose, sono fascista. Mussolini. Il buono di Mussolini, insomma, avrà fatto pure delle cose buone, pensioni. E che ha fatto? Morire. Aspetta, morire. Vuole, le avrà ben fatte queste pensioni, le ha fatte, o sbaglio? Ma è stato un grande statista, secondo te, il Duce? È stato un buon statista, secondo me. Allora, Giovanni dalla provincia di Pesaro, vai Giovanni, vai. Oh, Giovanni, vai! Pronto? Ah, sono io! Sì, dimmi. Ciao, Cruciani! Sennò chi è? Volevo dire, quello lì che ha sparato, il gioielliere che ha sparato nell'altro, sì. Ha sbagliato. Perché invece di ammazzare lui, devo ammazzare tutti e tre. E cazzo ti fare? Quello perché vado un po' a fare un po' di tirasegno. Bravo, Giovanni, bravo, mi piace. Tutti e tre. Mi piace questo spirito combattivo. È ubriaco? Questo spirito combattivo. No, io dice... non sono ubriaco, Parenzo. Sembrerebbe il contrario da quel che dice. Della vita persa, invece no, io guardo cosa mantengo davanti. Io? Cosa no, mantengo? È un'espressione, mantieni. Tutte le bocce perse, sai cos'è una boccia persa? Sì, sì, una sì. Boccia che a biliardo va nella buca, da buttare via. Cioè, non ho capito che lui appoggia sempre tutto, però io sono d'accordo con Cruciani che quello non deve avanzare tutti e tre, non uno solo. No, io veramente questo non l'ho detto, però va bene, cioè nel senso che lo pensi, però secondo me. Adesso voglio dire come lo penso io, dai. No, Giovanni, per carità, ti abbraccio fortissimo, sei numero uno e sono sicuramente dalla tua parte, siccome dalla vostra parte. È ora che smette di andare a rubare sta gente. Ho fatto rubare a casa sua, da dove sono venuti? vengono a rompere il caso tutti da noi. Non sì, può darsi che siano anche italiani questi qua che hanno rubato lì, ecco, a Pisa, appunto, non è sicuro. Qualcuno, perché io sono stato all'estero, sono stato in Svizzera, lì mantieni quello, fai quello che dico loro, altrimenti ti cacciano un fracobone nella schiena, ti mandano a casa. Problema risolvi. Giovanni, amico mio, la questione è molto semplice. Tu dici lui ha sbagliato, Giovanni, perché traduco un po' dal tuo dialetto marchigiano, bravo. Diciamo in realtà non troppo marchigiano, vicino più a romagnolo, direi. No? Io sono romagnolo, sì. Esatto. Adesso vivo nelle Marche, ma sono romagnolo. Sei romagnolo e si sente. Tu dici doveva sparare non a uno solo, a tutti e tre, tutti e tre, farli secchi. Ma il vero umore dell'Italia è questo qua. L'italiano, ma non è titillare, è la realtà. Tu sai cosa stai facendo? Ma tu che dai. Tu stai, ti faccio questa metafora qua che ti piacerà. Dimmi. Tu stai andando a titillare le palle al leone, cioè funziona così. Non tu è sei nuova, così, come c'è come un leone, no, lo so che non lo per carità, c'è un leone nella foresta, nuova, che è lì tranquillo che anche tu che dorme, l'hai detta più volte, sì. E stai titillando e poi c'è tutto ti sbrana. A un certo attento a cavalcare la tigre, l'italiano stai attento, la... Giovanni, stai attento a titillare Giovanni questi istinti bassi. È il popolo. Stai attento. Giovanni è il popolo. Giovanni è il popolo, rappresenta l'umore, rappresenta la pancia, rappresenta rappresenta non la pancia, rappresenta le palle, no. Non la pancia, sì, del leone per rimanere nella metafora, ma non rappresenta la pancia, no. Le titilli, tu le titilli quelle, no. Rappresenta quella parte bassa dell'uomo. Ma scusami, perché... Giovanni, spiegami perché se Giovanni dice Giovanni, che... ma cosa me ne frega di quello che dice Giovanni? Ma perché, che cosa te ne frega? Ma uno dovrebbe legiferare allora, sulla base Baglioni, di quel che dice Giovanni. Vai al Baglioni, vai al Baglioni, niente, al Baglioni a mangiare. Scusami, Giovanni, tu che fai di mestiere? Io faccio il falegname. Fai il falegname. Ho 64 anni, sono 63 anni che lavoro, sempre. Ma io sono un vagabondo, un pigliapesci, io comunque lavoro sempre. Se vengono a rompere i coglioni a te, che fai? Il dialetto, però, non sono un vagabondo. Gli sparo nella testa, dove lo prendo? Gli sparo, c'ho il fucile carico attaccato al letto. Grazie molto la cadenza. Grazie molto la cadenza. Ma questa è l'Italia vera, reale, non quella dei tuoi salotti TV. Non quella dei tuoi fottuti salotti TV. Tutti seduti là su queste poltroncine del cazzo. Sì, a pontificare. Tutti sorridenti a pontificare. Quello là su giù. Ma che signor Centinaio oggi ha sostenuto le stesse cose che sostiene questo signore. Ma anche lui è un salottiero, dai. Tutti salottieri, dai. Piccola differenza di cosa gravissima. Peraltro, che lui è eletto dal popolo per dire quelle robe lì. Quindi Giovanni, la cosa ti abbraccio, fa ciao, più, ciao. Sono manifestazioni indegne. La Zanzara. Extraterrestre, portami via, che ho finito la mia scorta di Maria. O extraterrestre, vienimi a cercare, io nel frattempo c'ho Davide da perculare. Allora, devo dire che mi è piaciuto moltissimo l'intervento di questo ascoltatore della provincia di Pesaro, perché ha mostrato a tutti quale sia la realtà delle cose. Avuto un colpo della strega, no, alla ma schiena, la realtà delle cose è una sola, che quando ci si allontana dai salotti televisivi, in particolare da quelli della Sette guidati dal signor Parenzo, e ci si avvicina... Alla schiena, non riesco neanche a rispondere, te lo pazienza, giuro. Dai. E che è? Ragazzi, fate intervenire un medico. Ma la schiena mi è venuto un colpo della strega, come se qualcuno me l'avesse tirata. Guarda. Allora, medico vada immediatamente adesso. No. Sì, un medico specializzato in colpi della strega, mal di schiena. Arriva. Per carità di Dio. Qua non si sa mai con gli appelli tuoi alla radio. Un medico Mengele, specializzato in mal di schiena arriva. Di qualsiasi fede politica sia, anche un fascista, un fascista. No, meglio se un medico migrante, per cortesia. C'ho meglio, preferenze di Parenzo, un medico migrante, sì. Venga in Piazza Indipendenza, no, 23 stare, barra che è CIA, non mi ricordo che cazzo niente, è Roma, vicino a che banca. Entri, si presenti, il medico di Parenzo. Sì, bravo. Meglio un medico migrante. Meglio un medico migrante per un intervento immediato alla schiena. Allora, medico di preferenza migrante, poi anche uno fascista, va bene. Allora, mi è piaciuto molto l'intervento, dicevo, dell'ascoltatore prima, per un motivo semplice, che quando si allontana dai salotti televisivi parenziani e si entra nella realtà, il signore falegname che era... Vabbè, potrebbe essere anche notaio, architetto, quello lì, non mi interessa niente. Ha detto la realtà, io, avrei voluto vedere il gioielliere sparare a sì, tutti e tre ed uccidere, perché la realtà è questa. Realtà è questa, tutto sì. Il resto sono sofismi, cose, che rappresentazione diritto, dai di sto paese, ma la realtà è che questa rappresentazione, c'è una dai. Maggioranza schiacciante su questa roba, c'è una qua, maggioranza silenziosa che non la pensa così, che è silenziosa e alle volte si fa sentire, per fortuna. Alessandro Meluzzi con noi, eccoci. Buonasera allora, a tutti voi. L'ultimo intervento. Cos'è, arcidiacono lui? Non no, mi è uno dei capi della Chiesa ortodossa italiana. Il capo della Chiesa ortodossa. Primate metropolita della Chiesa ortodossa italiana. Allora, mamma mia, primate siamo un po' tutti, naturalmente. Sì, esatto, siamo tutti dalle scimmie. Esatto, primati siamo un po' tutti. Aspetta che mi alzo in piedi, faccio tutta l'intervista ma in piedi. Ma non puoi, c'è mal di schiena, hai detto. Però mi alzo in piedi per mi alzo in piedi per rispetto al primate. Allora, però devo dire la verità, che l'ultimo intervento di Meluzzi ha suscitato grandi approvazioni, Parenzo, perché avete fatto una battaglia pazzesca. Tra gli ascoltatori, tra i telefonanti, è diverso sempre. No. Va bene, andiamo avanti. Allora, con questi sofismi, andiamo al sodo. Allora, il sodo è questo: difendi il giudice di Pisa, Meluzzi, quello che ma ha fatto? Sicuramente, no? Senza ombra di dubbio. Ma il fatto che io lo difenda da cittadino lo considero assolutamente normale, ovvio, perché il diritto alla legittima difesa è sancito dalle nostre leggi, è previsto, in questo caso è ampiamente all'interno della legislazione anche recentemente modificata nel 2006. Quindi, da quello che io penso da cittadino e da perito applicato ai tribunali è scontato. Ma io mi permetto di dire che lo difendo anche da sacerdote e da uomo di chiesa. Come da sacerdote? Perché io ho osservato una cosa anche nei dibattiti sui social, che ognuno può anche sostenere che la legittima difesa sia un diritto, ma se si tratta però di un prete, di un sacerdote, di un uomo di Dio, allora no. Allora bisogna lasciarsi immolare, perché il cristianesimo dice che bisogna farsi immolare. Bene, io vi posso dichiarare, esplicitare, che non è così. Perché i padri della Chiesa, Sant'Agostino, San Tommaso, negli scritti sulla guerra giusta, dicono che non è soltanto legittimo, ma è doveroso difendere e difendersi dai assassini, dai rapinatori, dagli aggressori, difendendo i deboli, perché se non si difendono i deboli, ma tu cosa faresti? La moglie, ma anche lui stesso, ma certo. Un uomo di 69 anni, già ferito in una condizione precedente, si commette un atto di ingiustizia anche di fronte a Dio. Cioè, tu stai dicendo che quello che racconta qualche finto pretastro che dice no, comunque la non violenza, immoliamoci, fatevi sparare, fatevi rapinare se siete uomini di Dio, è una stupidaggine anche dal punto di vista della fede. Scusami Alessandro, quindi, però c'è una cosa, tu dici come capo della Chiesa ortodossa italiana, ma addirittura la quale Chiesa ortodossa, difendi, non c'entra niente, difendi Giulia di Pisa e che si e può fare? Che non, ha fatto un atto legittimo e giusto. Anzi, un atto santo. Ma dovrebbe essere indagato. Un atto santo. Un atto santo. Che rischiava di essere uccisa. È la difesa del debole, dell'orfano, della vittima. Ma è per quello debole. Che dico che è una cosa. Ci sono gli scritti di Sant'Agostino sulla guerra poi da San Bernardo. Ma non scomunicare. Non come dire. Ma per una volta che alziamo il livello. Per una volta che alziamo il livello non va bene. Alziamolo, ma non scomodiamo Sant'Agostino per giustificare l'ingiustificabile. Ma siamo uno stato di diritto. Ma ho capito, ma Sant'Agostino non mi interessa. Ora, ma non mi interessa sul diritto, ma neanche San Tommaso mi interessa il diritto italiano, ma chi la tutela delle persone, no San Tommaso, esattamente conformemente al diritto, scusami, perché c'era una minaccia, immediata e proporzionata, quindi se non si fosse difeso avrebbe fatto un atto ingiuridico, ma nessuno lo mette in discussione. Scusami Alessandro, però il fatto che adesso è indagato per omicidio non è una follia, questa cosa è ovvio che sia così, lo indagheranno e archivieranno, perché voglio appunto. Dire io, ma non è detto, sai. Questa cosa di indagare, dicono che è un atto dovuto. È una cazzata. Non è vero che è un bravo, atto dovuto. Ma come? Certo che è un atto dovuto. È benissimo archiviare prima di indagare. Ma certo che è un atto dovuto. Di scrupolo si vuole indagare. Tu è un periodo che frequenti molto le chiese ortodosse. Va bene, d'accordo. Tu mi pare che è un periodo che frequenti molto le chiese ortodosse. E te ne sono anni. Se frequentassi un po' anche il diritto, sapresti che è un atto dovuto. Ma non è vero, dai, non è vero. Si vuole anche capire. Necessariamente dovuto. Quando un procuratore decide di aprire un fascicolo, decide di aprirlo, può anche decidere di non aprirlo. È meglio quindi, quando citi San Tommaso, San Giuseppe, San Cruciani, in una tavola rotonda alla quale partì. Comunque, ammettiamo anche che l'abbiano aperto, che lo aprano, ma che lo aprano e lo chiudano. Ecco, non si permettano certo di trascinare questo uomo. Ma non lo decidi tu, lo decide un magistrato. Perché la legge degli uomini e della legge di Dio. Ma scusate, lasciamo perdere la legge di Dio. La legge di Dio, ma che cosa dite? La legge di Dio, secondo lui, state creando una carea pazzesca su una rapina. Dio, che autorizza a difendersi dagli omicidi, capite? Perché se arriva, un'orda di stupratori in un villaggio e gli uomini del villaggio non difendono il villaggio e fuggono, fanno un atto illegittimo. Ma chi dice? Ma che cazzo di Alessandro? Un atto impuro. Alessandro, lo volete capire sì o no? A proposito, bisogna difendere i deboli. A proposito, dalle aggressioni. Ma non c'è dubbio. Come Parenzo, ma è una che è cresciuto in una grande cultura come quella dell'ebraismo, che ha fatto mille guerre sante per difendere il popolo guerre di Israele. Ma non capisca questa cosa elementare. Ma cosa stai dicendo, guerre sante? Ma che vuol dire? Elementare. Ma è ovvio che ci si può difendere. Ma già è evidente. Apri l'Antico Testamento, apri la Bibbia, apri il libro dei re. L'Antico Testamento, apri. Ma non apro. Non apro cazzo. Non apro niente. Dagli amorrei, dai loro vicini. Gli amorrei, la gonorrea mi fate venire voi. Ma no, almeno fatto una guerra mamma per difendere mia, gli ebrei dai nazisti. Ma che cosa sarebbe stato? Ma cosa altro c'entra con un con un tabaccaio che ha sparato per difendersi? Gonorrei, menorrei, la menorrea, ma non mi interessa niente. Ma no, ma dai, leggi un po' di Bibbia. Leggi, apri. Senti l'altro. Sai benissimo che erano gli amorrei. Sai benissimo chi erano i filistei. Lo ma sai. Allora leggiti un po' di Bibbia. Ma se non sei un buon ebreo. Ma non mi in questo momento stiamo parlando di un'altra cosa, di un ha difeso è una difesa dei deboli. Questa è la realtà. In discussione. È un atto doveroso. Ma chi lo mette in discussione? Leggi la Bibbia. Ma leggete la legge Castelli. Basta. È stata già approvata. Ma che c'entra? La legge Castelli. Ma che ce ne frega? La legittima difesa. Ma questa è un'altra cosa. State facendo una gli amenorrei. Ma che dite? Ma che siete impazziti tutti quanti? Sì, c'è già una legge, no, c'è però, la scusa, legge Castelli sulla legittima difesa. Io ti considero un uomo intelligente. Fermate un attimo. Allora, Alessandro Meluzzi sta dicendo una cosa molto chiara, secondo me. Al di là delle citazioni colte che ci stanno tutte, perché ogni tanto, Parenzo, adeguati anche tu. E in questo momento Meluzzi sta facendo delle citazioni colte. Dunque, ascolta, leggi i passi che ti ha detto, leggi e rileggi. Leggi e rileggi. Senti l'altro, senti l'altro. Cosa ha fatto Mosè per liberare? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha scatenato addirittura le piaghe d'Egitto, ha fatto morire i primogeniti per liberare il suo popolo. Non ha fatto questo Mosè. Due cruciali siete le mie piaghe. Ma che dite? Che discussione fate? Il gioielliere come Mosè, questa è la realtà. Come Mosè, più o meno. Ma non bestemmiando Mosè al suo popolo. Ma che state bestemmiando? State fermo, fermo che torniamo. Ferma, ha ragione Meluzzi. Ma che siete impazziti? Chi sei, Cruciani? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare? Parolacce? Vogliamo fare? Che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, le fa un complimento, non lo deve trattare male. Non lo deve trattare male. No, ma avete fatto un cazzato? Non si può, una persona vi tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e Parenzo vuole far filippino in un sassetto un attimo, vattene a qualcuno al bagno, no? Hai capito, mone? Hai capito, mona? La zanzara. Ero fermo al semaforo, finestrini aperti, si affianca uno alla mia macchina, finestrini aperti anche lui, sintonizzato sulla zanzara. Siamo al top. Allora, con noi Alessandro Meluzzi. Intanto, caro Parenzo, devo dirti una cosa, che il rapinatore ucciso a Pisa era stato scarcerato da poco, 44 anni, italiano, originario del Lazio, pregiudicato per altri reati, era uscito da pochissimo dal carcere Don Bosco di Pisa. Sì, ma questo... gli ha detto male, perché era l'unico, tra l'altro, con la faccia coperta, con gli occhiali, eccetera, gli altri erano con la faccia scoperta, Allora, voglio chiedere a Meluzzi un'altra cosa. Ma ti pare normale che il presidente della Camera Boldrini intervenga sulla questione del movimento parafascista dei fasci del lavoro di Sermide in provincia di Mantova, invocando sostanzialmente di ribaltare tutto? Oggi sembra che addirittura le elezioni si possano ripetere con il plauso incredibile di Parenzo. Cioè, Parenzo sostiene che tutta la trafila che questi hanno fatto per essere ammessi sia sostanzialmente nulla, perché questi si sono inventati spaventati o non c'ho, forse c'è un covo di fascisti lì che ha permesso a questi di candidarsi. Questi sono 12 anni, 15 anni che si candidano, è incredibile quello che vuoi fare tu, Davide. Io trovo che rifare le elezioni sarebbe un vulnus irreparabile della democrazia. Mi auguro proprio che questo non accada, ma se questo dovesse accadere ti dico anche secondo me che cosa si deve fare. Intanto trovo altrettanto aberrante che la signora Boldrini, che è assurta al rango di terza carica dello Stato per il suggerimento di Nichi Vendola prima che diventasse mamma, a partire da un partito del 2-3%. Vabbè, adesso non facciamo ironie sulla paternità di Nichi. E che siede su quello scanno da tanto tempo oramai. Dovrebbe, come dire, occuparsi semmai della conduzione della Camera Bassa e non interferire con le elezioni amministrative. Questa è una cosa assolutamente sbagliata e anche antistituzionale. Ma poi chi è per invocare l'intervento del ministro degli interni? Ma io credo una cosa ancora il difensore più grande della democrazia. Ma chi è? Credo che attrincerarsi per questa specie di sinistra dei salotti radical chic dietro ad una legge voluta dagli odiati Scelba e Pella al tempo dell'applicazione delle norme transitorie della Costituzione, c'è un altro dei tanti paradossi della nostra storia italiana. Cioè? E credo anche un'altra cosa. Non si può proclamarsi fascisti, ma cosa dici? Il ministro degli interni, il bravo ministro degli interni Minniti e il ministro degli esteri Alfano dovrebbero semmai occuparsi a proposito di fascismo. Ma non di questa una croce in testa, ma io non ho capito. Ma avete perso la logica? Una ragazza di 20 anni. Che non solo non era nata 100 anni fa quando c'erano i fasci del lavoro, che tra l'altro erano diciannovisti più che fascisti, che fanno parte di una storia diversa della storia italiana, ma non solo, ma dovrebbero occuparsi semmai molto più seriamente di una questione antifascista aperta, e che sono le milizie parastatali che aggrediscono il popolo del Donbass in Ucraina, sparando su civili con divise che portano la sigla delle SS e le bandiere, i gagliardetti delle SS, di uno Stato, la Repubblica Ucraina, vellicata non solo da Soros, ma anche dalla Repubblica Italiana. Questa è una grande vergogna, altro che la lista di Sermide. Dovrebbero occuparsi dei nazisti che colpiscono la popolazione civile del Donbass, dei nazisti e delle SS, piuttosto che di una bella, brava ragazza di provincia che lungo il Po, quello di Bacchelli e quello di Don Camillo, ha fatto niente di male, ma ha raccolto il 10% dei voti, sì, 334 voti, dai, su. Se dovranno rifare le elezioni, benissimo, io, come dire, cercherò di raccogliere una lista di libertari che noti e in qualche modo credibili, che siano disponibili a candidarsi a Sermide perché la democrazia non venga sovvertita. Questa è una cosa che io... Parenzo è allibito. Parenzo è semplicemente allibito del fatto che l'arcidiacono della Chiesa ortodossa del Settimo Cielo Avventista... il cittadino Meluzzi, del prete arcidiacono della Chiesa calvinista... Già membro del Comitato Centrale della FIGC. Già membro della FIGC, già socialista, già radicale, già craxiano, già berlusconiano... Per difendere la democrazia... La cosa è più semplice. C'è una lista che non si poteva presentare perché non il voto popolare. Ma non puoi fare una cosa contro la legge. Ma io non so, ma ti è caduta una croce dell'arcidiacono in testa? Non ho capito cosa è successo. Il voto popolare è sacro. Ha ragione Meluzzi. Per noi chi poi sembri Otelma, per noi non c'è. Ha ragione Meluzzi. C'è una legge che è la legge Mancino che dice che non si può fare a di fascismo. Ma chi dice che è stata fatta apologia? Ma chi l'ha detto? Ma se tu presenti una lista, con addirittura non ho sentito nessuno come dire che facesse l'apologia di fascismo. Ammesso non concesso che di questo si possa discutere della validità di quella legge. Mi pare che in questo caso non sia stata fatta alcuna apologia, perché il fascio, tra l'altro, non è stato solo il simbolo dei fascisti, è stato il fascio, è stato il simbolo della rivoluzione francese, è stato il fascio della Repubblica Romana. Ma non fare il furbo, ma scusami, loro stessi rivendicano di essere neofascisti. No, ma loro rivendicano di essere fascisti, ma io dico chi se ne frega, chi se ne frega. Ma voi potete dire quello che volete, ma la legge è un'altra cosa. I cittadini hanno il diritto di votarli. Va bene, no, non hanno diritto di votare, non dovevano neanche presentarsi. Ma è stata ammessa questa legge? Hanno commesso un errore. Ma è 15 anni che si presentano, dai! Allora se la prendono con la prefettura di Mantova, purtroppo stanno facendo. Senti Alessandro, l'ultima cosa, ma il prefetto di Mantova rifaranno le elezioni. Bene, io mi candiderò a Sermide sperando di essere eletto sindaco. Senti, ma secondo la Chiesa ortodossa la masturbazione è consentita oppure no? Ma la masturbazione non è materia di cui la Chiesa ortodossa si occupa, perché la Chiesa ortodossa tende a considerare la dottrina non un giudizio ma una terapia. Quindi se la masturbazione è qualcosa di cui le persone hanno singolarmente bisogno, ben venga. Se è qualcosa che serve a diventare più sofferenti, più nevrotici, uno se la curi, ma se la curi spiritualmente anche, perché la Chiesa ortodossa non ha mai un atteggiamento giudicante, ha un atteggiamento sempre terapeutico. Terapeutico, questo è interessante. Il peccato non è una colpa ma è una malattia. Allora, per qualcuno masturbarsi è una malattia, per qualcuno no. Scusami, per me non lo è, per esempio. Scusami un attimo, l'unione a tre che c'è stata in Colombia, cioè la legalizzazione dell'unione a tre, cioè dell'unione tra tre persone. Io trovo che sia una mostruosità, ritengo che sia una mostruosità, perché alla fine, come dire, si limita semplicemente a creare una situazione in cui tutto è uguale a tutto e quindi uguale a nulla. Quindi io credo che non sia nulla, come dire, non sia nulla di cui ne valga neppure la pena di discutere, perché a questo punto possono essere unioni a tre, a quattro, a cinque, cioè, semplicemente ci troviamo di fronte alla negazione di ciò a cui serviva la coppia, cioè a consolidare e a strutturare un rapporto. Tre persone non sono queste. Cioè, invece due? Cioè, è diversa la cosa? Due possono essere. Io poi ripeto, non sono omofobo, quindi per me, come dire, non ho nessun pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali. Però tre, anche se ritengo che nessuna di queste cose possa essere chiamata matrimonio, perché matrimonio vuol dire mater munus, no? Dono della maternità. Vabbè, quindi per però fare i bambini ci vuole un uomo e una donna, notoriamente. Anche perché non si è dato ancora che non si debba passare attraverso questo tipo di incontro. Ciao Alessandro, ciao. Un abbraccio a voi, ciao. Ciao. Luca Vicenza, vai Luca. Sono disperato. Luca, vai, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento. Pure l'arcidiacono. No, perché ti volevo fare, a parte di complimenti, non per la trasmissione, perché da traffico e borsa, è un'ora che mi scassate i coglioni. Hai ragione, ci sono molte interruzioni, hai ragione, dimmi. Meno male che sono interruzioni. Però ti volevo fare invece i complimenti, perché sono uno di quei tanti italiani, e non solo, che grazie a te hanno scoperto lo squirting, questa cosa meravigliosa, quindi mi sto divertendo parecchio. Ma come, tu non lo conoscevi prima? Hai capito. No, a 40 anni non cioè, hai 40 anni tu? Non conoscevi lo squirting a 40 anni? No. Vabbè, non conosceva, adesso non mi pare una cosa così incredibile. È gravissima sta cosa, scusa, 40 anni non sapere che cos'è lo squirting, ma dove hai vissuto fino adesso? Cioè, dove sei stato? No, lo sapevo così come... Come ha detto l'altro giorno Porro a quello dei 5 Stelle, ma dove, in che mondo vivi? Cioè, su un altro piano che quello della politica, no? In che mondo hai vissuto fino adesso? Vivo in un tubo di scoregge, io, diciamo. Vabbè, allora che meraviglia, ciao Lorenzo, ciao. Ti volevo appunto ringraziare per questo, e poi ti volevo dire che comunque a me la figa mi piace tantissimo. Questa è importantissima da sapere. Poi però io, oltre a questo, sono anche bisex. Sei bisex pure? Sì. Altro ancora? Da qualche tempo vuoi diventare tempo, donna? Non ma so. Noi perché dovremmo credere al fatto che tu ci dici che sei bisex? Ci deve interessare, soprattutto. Credici se ti va, però non è. Che vuol dire da qualche tempo sei bisex? Cioè, ti piacciono anche gli uomini? No, mi piace farmi culare praticamente. Vabbè, d'accordo, però adesso voglio dire, va benissimo. Però noi, questa è chiaramente, ci stai prendendo in giro, Luca, no? No, assolutamente. Ma dai, Luca, cioè, dai. Sì, è una cosa che ho, però per dire che... Ma perché? Da chi poi? Da uomini o da trans? No, da uomini. Mi piace anche mettermi tipo... Va bene, d'accordo, calze, va bene, sì. Come le calze? Cioè, ti piace vestirti da uomo o da donna? Sì, da donna, sì. Però non mi piacciono gli uomini, mi piace prenderlo. Vabbè, però questo per dire che comunque ho modo di vedere in questo mio, diciamo, peregrinare... Ma stai facendo un percorso, praticamente? Stai facendo un percorso o no? Percorso, mi sto facendo inculare, cioè un percorso. Se vuoi chiamare percorso, chiamano comunque, percorso. Comunque, senta, amico mio, se a lei le piace così, ma anche di, come dire, renderci partecipe di questa roba... Non mi interessa, se a lei fa piacere renderci edotti di queste sue pratiche, è un problema suo, francamente, che lei è un esibizionista, però, oltre che un maiale, evidentemente. Ma perché? Solo perché non gli inculo un maiale? No, ma può prendere quel che vuole, ma è un esibizionista, capito? È un esibizionista, Parenzo, a questo punto. Secondo me, tu sei potenzialmente, magari sentiamo, non l'hai mai fatto, però anche potenzialmente... L'esegesi di chi sono io adesso. Ti togli un piacere importante, perché molto... Ecco, mi fa piacere, continuerò così. Ti do questa attenzione, continuerò a togliermi. Perché hai questa paura di pigliarlo in quel posto, Davide? Non ho capito. No, io mi tolgo questo piacere. Perché questo terrore, guarda, di prenderlo dietro? Ho cominciato con il salmone. Aspetta, con una ragazza? con una ragazza che con un vibratore mi ha fatto provare questo piacere. Ma bene, mi fa molto piacere. Però, guardi, e poi sei e poi sei andato oltre, diciamo, no? E poi sono andato oltre. Vabbè, vabbè, ma come mai questa evoluzione, diciamo, dall'oggetto con una ragazza, che è una cosa abbastanza normale, una domanda che al pisello vero e proprio? Come questo, mai? Come dai, mai? Ce lo svegli. Perché mi hai preso così, però è andato in questa direzione. Perché adesso devo per concludere. Concludiamo. Ma sei fidanzato? Sei sposato? Sei fidanzato? Che c'è? Ero sposato tempo fa, ma ormai, credo. Ormai sei single. Sì, ormai sono single per sempre. Rimarrò ti credo per questa attività qui, per forza. Certo. No, però volevo dirti a Parenzo che la maggioranza silenziosa sta in silenzio perché molto probabilmente si sta facendo il curare. Questo è il discorso. Sì, perché ma può anche essere, ma non lo dice. Può anche essere, ma non lo direbbe mai in radio, non lo direbbe mai in contesti. Va bene, ciao Luca, Nicole Salerno, vai. Nicole da Salerno. Nicole da Salerno. Cruciani, un saluto veloce. Ma veloce che vuol dire? Chi lo decide veloce? Cioè, no. Un saluto veloce, ma che è un saluto veloce? Un saluto terribile. Veloce a te perché siamo praticamente io e il mio fidanzato. Ancora, dimmi, che c'è? In un rapporto a tre perché ci sei tu, è praticamente innamorato della zanzara. Ecco un altro. Ti avevo promesso. No, è metaforica questa cosa stavolta. Vabbè, Nicola, che cosa ci vuoi dire? Che cosa ci vuoi dire, amica mia? A parte appunto questo saluto a te che quindi. Va bene, d'accordo, me ne frego io dei saluti, lo sai, me ne fotto, dai. Ma lo so, figurati che sei delicatissimo su questo ormai. Vabbè, Nicola, vai, su, amica mia, non ci fare perdere tempo. Che vuoi dire? No, non ti voglio far perdere tempo. Volevo poi dire a Parenzo che basta, insomma, questo atteggiamento, voglio dire. Con chi? Ma sì, di difesa, diciamo, rom, immigrati, ogni tanto che spendesse pure qualche parola, ecco così, ma fugace, se ci riesce, se ce la fa, ecco. Ma scusa, di chi io difendo il diritto, sono contro le discriminazioni, ormai penso che l'abbiate capito. Nicole, un po' tu. Io voglio capire una cosa prima di chiudere questa telefonata, ma tu ogni tanto squirti o no? Ecco, la domanda. Senti, confesso, mi ha chiesto questa cosa scherzando e ridendo, il mio ragazzo non ne sapeva, non ero a conoscenza. Ma nessuno è a conoscenza di questo. C'è un'ignoranza in Italia che è abissale. Sì. Cioè, è illegittimo non sapere l'articolo 18 della Costituzione, dello Statuto dei Lavoratori, quello che è. Quello che è o della Costituzione. È legittimo, ma non sapere cos'è lo squirting, non ragazzi. Lo so, non no, lo sapevo, sei ignorante. Sei ignorante. Ad illuminarci. Ecco, bene, l'hai praticato, lo sai che cos'è. È praticamente lo Zagrebelsky dello squirting. Esatto, diciamo, come il professore. Sono lo Zagrebelsky dello squirting. Ciao, Nicole. Tu non hai mai squirtato in vita tua, diciamo la verità. No, te lo dico proprio, mai. Quindi spero dopo questa, mamma mia, che delusione, questa conoscenza. Ma come fa il tuo fidanzato? Come fa il tuo fidanzato? Beh, come fa il mio fidanzato? Segue te, come cazzo può far fare lo squirting a me? Abbi pazienza. Ah, tu dici che segue troppo me, segue troppo la zanzara, sì. E ti scopa troppo poco. Bravissimo. Ecco, ma che bello condividere queste cose davanti a 2 milioni di persone, ma che meraviglia. Ma dov'è finita l'intimità? Ma dov'è finita la cosa? Ma io veramente mi vergogno per voi e mi dispiace. Tu ti vergogni, proprio. No? Tu ti dovresti vergognare, Nicole, forse di altro. Scusa un attimo, ma quante volte scopate voi al mese? Hai fatto una media? Al mese? Ma una settimana, 4. 4 a settimana? 4-5, ma di che ti lamenti? State ma di che ti lamenti? Di cosa ti lamenti? Ma che sei nata? Ma qui è 4-5 volte. Io non mi lamento. 4-5 volte a settimana. Mi devi riflettere su una cosa, cioè che questa pratica ad oggi non ho avuto ancora modo, ecco, di conoscerla. Questa invasione. Ciao, Nicole. Ciao. Ci dispiace, ci dispiace molto. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzavi, cos'è lo squirting? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. La zanzara. Mia zia avvocato a un pranzo di famiglia. Simone, dovresti ascoltare un programma di economisti che va in onda la mattina su Radio 24, spettacolare. No, zia, io su Radio 24 ascolto solo la zanzara tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18:30. Quello lì è un programma al limite del penale. Come si fa a seguire? Ma come sei messo? La zanzara. Oggi mi hanno fermato i signori di Amnesty International. Mi hanno chiesto dei soldi, gli ho detto: amica mia, io ho dei soldi, al massimo li do a Zucchero. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te. Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la. Dai, cazzo! Ah, Cruciani, Cruciani, sei veramente una merda. Quelli in Colombia si sposano in tre e fanno pure bene. E tu cosa fai? Tu gli vai a dire che no, il modello di famiglia però non è quello tradizionale. Tu? Ma vaffanculo, Cruciani, vai a fanculo. Ma scusate, da qualche parte risulta che io abbia mai detto, che il matrimonio a tre va bene? Ragazzi, che sia un uomo, due donne insieme, eccetera, il matrimonio a tre è una follia totale. E non è che se uno approva le coppie gay o le adozioni, come sì, ho fatto, certo, debba essere per forza aperto a queste follie assolute. Il matrimonio a tre non esiste. Esiste il poliamore, cioè le convivenze, la gente che si ama in tre, il libertinismo, il cazzo che volete. No, ma esistono queste cose. Sono minoranze, naturalmente, ma ci sono. Ma va bene, ma nessuno pretende di sposarsi con le carte bollate, nessuno, solo questa follia, non so dove, dov'è, in Colombia, a Medellin, l'abbiamo detto già ieri, sì, ieri è ieri. Una follia, ma è una follia per chi lo certifica, non per quelli che si vogliono unire in matrimonio. Quelli sono tre deficienti, erano in quattro, che pensano di avere qualche vantaggio dal punto di vista giuridico. Ma è una follia chi glielo fa fare, il matrimonio in tre, in quattro, ma che cosa è? Ma è una cosa inesistente, ma non la metto sul piano della famiglia tradizionale, sapete quanto me ne frega a me. No, trovo un'altra cosa folle, caro David. Gli avvocati gratis agli stranieri, cioè ai rifugiati a Venezia. Sì, me ne occuperò domani direttamente. Sì, il tribunale in tilt a Venezia, in tilt. Nel 2017 c'è stato un boom di ricorsi per avere lo status di rifugiato, con 2000 richieste di avvocati, ovviamente gratis. Cioè tu sei in Italia qui, poi fai ricorso per diventare rifugiato perché ti opponi magari al fatto che non ti hanno riconosciuto lo status di rifugiato. No, non è legittimo, va cancellata questa cosa. Solo, ah, va cancellata. Se ti dicono no, non sei rifugiato, non puoi fare ricorso. Non può durare anni questo iter. No, anni, bravo, hai centrato il punto, anni non può durare. Devono esserci risposte, è una cosa breve, vergognosa. Anni no, ma no, non si capisce perché a un cittadino italiano può essere dato di fare ricorso e a invece a un richiedente felicità non è possibile. Ma non è possibile, se ti respingono una richiesta, devi andare semplicemente non a fare in culo, nel tuo paese devi andare. Eccola là. Sei venuto in Italia. Capolista, noi con Salvini. No, che ottimo. Cosa ho detto? Capolista, scusa, capolista, ma perché? Ma ho detto che sei capolista. Ma tu mi spieghi il motivo. Tu mi spieghi il motivo. Sei capolista. No, ma tu spiegami il motivo, perché se uno ti dice. Fai il corso. Visto, no, aspetta, se uno ti dice che si oppone al fatto che uno viene in Italia, non ti riconoscono lo status di rifugiato e devi andare via, sei considerato salviniano e fascista. È una cosa logica. Non puoi fare ricorso. Punto e basta. Non puoi fare ricorso, non c'entra un cazzo. Ma perché ricorso? A che cosa? Sei rifugiato, ti dicono di no, a casa. No, fai ricorso. Non solo fai ricorso, ma ti dobbiamo pagare gratis l'avvocato. E tu ingolfi i tribunali. Tu sei un distruttore di tribunali. Sei a favore della burocrazia perché tu vorresti l'ingolfamento dei tribunali. Sei. Sì, vuoi che i tribunali siano ingolfati. Pazzo, ma come no? Lo so. Tu vuoi io che i tribunali vorrei... siano ingolfati dai rifugiati? Ingolfati di diritti. Cioè, devono essere pazzo. Ingolfati. Ma tu sei veramente malato. Dal fatto, guarda, che la legge va rivista su come vengono assegnate, su come ma vengono accettate. Ma non sei un politico, di quello che pensi. Chi se questo ne frega? Penso che vada rivista, ma penso che sia legittimo fare ricorso. Ma dov'è il problema? Ma l'ho no, detto ma se il ricorso è stato bocciato, però vai a casa, essere, a casa. Deve essere deciso casa. in tempi assolutamente brevissimi. Prendi la barchetta e vai a casa. Dai, il seggio te lo diamo, non ti preoccupare. Salvini ha detto che ti mette in lista, figurati, non ti preoccupare. Ah, io sono indipendente. sono indipendente, sono libero, sono libero dentro la... non ho partiti, capito? No, ma non rispondo alle vostre consorterie, ai vostri salotti. Ma anche Mussolini piace, non ho partiti, stasera mi piace salotti. Ma cos'è sta roba? Quali salotti? Ma di quali però salotti attenzione, parli? Attenzione, attenzione, nella vicenda dei fascisti di Sermide in provincia di Mantova spicca adesso un signore che è il commissario o il segretario in zona, nel mantovano, della fiamma tricolore. Mamma com'è mia, che si chiama questo? Ma come li trovi fuori tutti Sganzerla, sì, Sganzerla, il quale dice sgarruppato, che ha appoggiato la lista dei fasci, d'altra parte non è clamoroso, difficile immaginarlo, e nello stesso tempo che la signora fiamma è stata minacciata, cioè la ragazza ventenne, sì, vabbè, è stata minacciata. Chiamiamolo signor Sganzerla. Sì, pronto? Sganzerla? Sì? Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? Mi dica di... Lei è il segretario federale, il commissario federale della Fiamma Tricolore a Mantova? Sì. Eccoci qua, sono Cruciani, Radio 24, salve. E Parenzo, e Parenzo. È vero che la signora Fiamma Negrini è stata minacciata? Sì. Ma in che senso è stata minacciata, mi dica? È stata minacciata via internet e su Facebook. Ma in che modo? Molto grave. Molto grave. E offensivo. Cioè, che minacce di morte, parolacce, insulti, allora, cosa? È stata minacciata, stiamo mettendo la denuncia a Putino da presentare domani alla Procura della Repubblica. Però scusi, lei che è della Fiamma, che c'entra con quegli altri signori dei fasci? Perché noi abbiamo appoggiato la lista. Scusi un attimo, lei è fascista? Io, se bisogna intendere, vedere cosa intende lei per fascista. Beh, essere amante del proprio popolo, amante della propria nazione, sì, credere nella propria gente, lottare per gli italiani, sì, se tutto questo vuol dire essere fascista, sono orgoglioso di essere. No, ma lei è anche orgoglioso, anche nostalgico, cioè lei pensa che il Duce sia stato... Non sono nostalgico, non andate su questi discorsi, non cercate come al solito di fare i sovietici con me, perché non ci riuscite. Aspetta. No, però scusi, che c'entra essere sovietici, scusi, che c'entra l'Unione Sovietica, scusi? No, c'entra l'Unione Sovietica nel senso di essere, di fare i rossi con me. No, ma scusi, cazzate. Aspetta, detto, se però... essere fascista, intendete, ho capito, ma amare lei... il proprio popolo, amare la propria terra, amare la propria nazione, nazione, io sono fascista. No, ma per carità, però io dico una cosa, questa cosa la potrebbero dire tutti, cioè lei pensa che Mussolini sia stato un grande statista? Io penso che Mussolini abbia fatto delle riforme sociali che questi quattro maiali che ci sono adesso se ne sognano. Beh, dunque, lei quattro maiali. Qualcosa di buono il fascismo l'ha fatta. Ha fatto molto di buono il fascismo. Ma non si vergogna? Possiamo smetterla di sentire questa porcheria? Possiamo smetterla di sentire questa propaganda vietata dalla legge? No, è possibile? È possibile smetterla? No, non è possibile. È possibile smetterla? Non è possibile. Non è possibile. Scusi, che possibile. Ha fatto di male? Arrestatelo! No, come arrestatelo? Sì, che c'è? Arrestatelo! Dimmi dove si trova. Eccolo qua, il solito David ha fatto cadere la linea con questo, col fascista. Hai fatto cadere la linea col fascista, dai. Tu proprio non li sopporti questi qua. Quando uno dice sono fascista, Mussolini è stato un grande statista. Ma come te lo devo dire? Ma è gente da folklore spesso. Affrontali come gente da folklore. No, affrontali con la legge, però, perché uno non può. No, niente, va bene. Allora è tutto consentito. È tutto consentito. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Poca figa massaggio. Luciani, sei un grandissimo pezzo di merda, caga sotto, si parla di scie chimiche e tu chiudi la telefonata a quel povero ascoltatore, sei un pezzo di merda, hai paura dei poteri forti che ti prendono e ti inculano con una scia chimica, ti deve entrare nel culo a te e quel figlio di puttana di Parenzo. Che cazzo fai? Lascia parlare le persone. Coglione tribone. Ma questo mi ha fatto veramente incazzare, questo qua. Questo mi ha fatto veramente incazzare. Cioè non mi ha fatto veramente incazzare. No, perché ce l'ha con... Pronto? No, prego, dica. con chi parlo? Ma ha chiamato lei veramente? No, si sta sbagliando. No, ha chiamato lei. Se mi dice con chi parlo. Ha chiamato lei. Ti posso mandare a fanculo. Ha chiamato, no, lei. Ha chiamato lei. Ha chiamato. Ma vaffanculo. Ha chiamato lei. Pronto? Allora? Ma perché chiude? Allora? Allora, ci presentiamo. Con chi parlo? Non ho chiamato io. Ma hai chiamato tu? Hai chiamato la radio. Lei ha chiamato la radio. Hai chiamato la radio. Sì. Ma chi sei? Cruciani e Parenti. Ma hai chiamato la radio, esatto, poveraccio. Assolutamente no. Sì. Teste di cazzo tutte e due. Non vi chiamo e non vi cago. Vaffanculo. Hai chiamato la radio, imbecille. Hai chiamato. Ma come si permette? Guarda che incredibile, eh? Questo prima insulta, poi chiama, ma non vuole parlare. Ma si può sapere che volete oggi? Allora, hai chiamato, cioè, uno, hai più chiamato, uno non vi hai, pensa e più non hai chiamato, hai chiamato, la che cosa vuoi? Ma state sbagliando. Ma hai chiamato tu, ma dimmi che cosa vuoi sulle scie chimiche, scusa, cosa vuoi sulle scie chimiche? Cosa vuoi sulle scie chimiche? Vi ho mandato un messaggio. Ma non lo so, ma hai chiamato adesso sulle scie chimiche, cosa vuoi? No, perché vabbè, voglio dire, poi te lo dico in privato. Quello che ho detto nel messaggio lo penso tutto. No, ma che cosa? Leccaculo. Ma di chi? Hai paura dei poteri ma forti. Ma di chi? Ma quali poteri forti? Quelli che c'hai in testa te. Tu c'hai le pigne in testa forti, quelle dense, dure. Tu hai paura dure. Dei poteri forti. E quali sarebbero i poteri forti? I poteri, quelli che quando appena ti pieghi ti si inculano. Sì, e quali? Hai paura a parlare delle scie chimiche. Guarda caso, appena ci sono due scie chimiche cambia il tempo. Vabbè, ma vatti a informare, perché non capisco un cazzo. Qualche cos'è che cambia il tempo? No, ma vatti a informare. Cambia il tempo con le scie chimiche? Sei ignorante. Cambia il tempo con le scie chimiche. Cent'anni fa i contadini sparavano in aria per far piovere. Ignorante testa ma di cazzo. Non mi chiamare, ciao. Allora Maurizio, provincia di Viterbo, vai. Ah, Luciani, buonasera. Buonasera Parenzo. Vai, vai, dimmi. Sì, volevo intervenire sulle armi. Dai, dimmi, vai, vai. Portiamo alle estreme conseguenze il discorso delle armi. Io sono contrario alle armi, però portiamo alle estreme conseguenze. Mettiamo il secondo emendamento in Italia. Lo inseriamo in Costituzione. Cioè, modello americano. Non lo so, la Costituzione mi sembra complicato. Comunque, ragazzo mio, io sono favorevolissimo. Ma copiarlo, modificare la Costituzione, cose complesse. Io sono favorevolissimo. Non favorevole, favorevolissimo. Comunque, guarda che in Italia armarsi oggi. Il coercitivo della violenza non rimane più nelle mani dello Stato, ma ce l'hanno tutti. Ma infatti, secondo me, la questione principale è quella della libertà. Cioè, in America c'è la libertà individuale anche di difendersi, d'accordo. Questo è il punto fondamentale. A te non piace Parenzo? A me invece piace. No, non mi piace per niente, perché a è un me modello, invece piace, punto. È un modello da cambiare, anzi spero, ormai lì mi pare Obama ci aveva provato, mi pare, no? Ma quindi, che sì, ma cioè, non c'è riuscito, non ci riuscirà mai nessuno, perché gli Stati Uniti non se le fanno toccare le armi. Ciao Maurizio. Allora, caro Davide, ti presento una persona che, ecco, è come dire, è un imprenditore italiano. Bene. Un grande imprenditore italiano. Guarda, perché chi è? Amadori? Sono Amadori? Sono bisogno delle carni? No, assolutamente non nulla. So, no, un niente, imprenditore, un manager italiano. Imprenditore anche manager, nello stesso tempo. Un CEO di un'importante azienda. Una persona che trascina italiani in Austria, porta italiani in Austria. Cosa fa? Export? Importa export? Cosa fa? In un certo senso è vero, in un certo senso è così. Guarda, questo signore si chiama Cristiano... Oddio, ho visto l'ora, io tremo, perché in genere alle 20:42... Questo signore si chiama Cristiano Fabris e fa sostanzialmente il manager di un bordello. No, non è iscritto alla Confindustria. Non lo so, può darsi. No, oltre ad essere a gestire un sexy shop in Veneto, probabilmente, è anche il gestore di un bordello. Vabbè, il gestore, è il manager. Si occupa dei clienti italiani. Del cosa c'è da gestire in un bordello? Cosa c'è da gestire? Sono delle signorine che si offrono... È complessa la cosa. È complessa. Allora, comunque... Cristiano, Eccoci. Buonasera. Eccoci. Buonasera. Sì. Che devi fare? Qui abbiamo un bigotto insieme a noi. No, che bigotto, bigotto. Allora, il tuo mestiere, oltre capisco a quello niente, di essere capisco. Il proprietario di un sexy shop, dove? Sì. A San Donà di Piave, in provincia di Venezia. San Donà di Piave. Sì. Sei anche l'uomo immagino, pure. Come si potrebbe dire, il manager pure. Italiano, come si potrebbe definire? Esatto, sì. Allora, io non andrei fiero, la comunque. Parte italiana di questo centro in Austria, di questa cosa. Cosa ha in mano lei? Guardi, visto il lavoro che fa, francamente ci interessa poco. Cosa no, in a me mano interessa lei? Moltissimo. A me interessa moltissimo. Lavoro che la, fa, la gestione di tutta quanta la parte italiana, quindi hai sia capito. Dei clienti, sia della pubblicità e quindi tutta quanta la gestione delle collaborazioni che abbiamo quindi con beh, la parte uno italiana. Scoop pazzesco stiamo facendo. No, ma che scoop? Cioè, assolutamente no. Scusami, allora Cristiano, sì. La cosa è molto semplice. Il locale si chiama Welcome, il che ha un, beh, che ha un doppio senso. Sì, sì, beh, no, sì, il nome è azzeccatissimo. Mi sembra che abbia un doppio senso. Sì. Ora, e esatto. Da chi è frequentato? Venite, è il venite. Posto dove va sempre il nostro amico Karma. Ma è il posto. Onde. Senti, se ti posso mandare un signore che si chiama Karma, il nostro Karma sì, quotidiano. Sì, sì. Fagli un piccolo sconticino la prossima volta. Aspetto anche te comunque. Ma io prima o poi verrò. Un cliente molto prezioso per noi, sì. Noi l'abbiamo soprannominato il Karma quotidiano. Sì, tu l'hai soprannominato così. E sarebbe Carmine da Roma, il quale dice sempre di venire lì in Austria. Magari è non uno è vero. Che l'unico modo che ha per andare con una donna è pagare, quindi capisce che il livello di sta persona. Scusa, tutto. Allora i welcome, cioè, da chi è frequentato? Cioè, come sono le regole del gioco? Ma, allora è abbastanza complesso perché comunque questo dov'è, è un locale. È un locale è nato alle porte dell'Italia, quindi siamo in Austria, ma siamo a 5 km dal confine. Ma è nato per gli italiani, ma per i porci italiani, diciamo la verità. È chiaramente ecco, appunto, almeno diciamo le cose. Che... Esatto. Quindi, diciamo niente, almeno le cose come stanno. E dunque? Diciamo che è una casa del piacere, però è una in chiave moderna. Quindi cioè? Diciamo che all'interno c'è una spa, quindi c'è un centro benessere completo di tutto, piscine, cinema, club. Abbiamo cinema. Un ristorante, cinema, abbiamo non, credo che non credo che proiettino no. Insomma, film di Fellini, immagino. No, fanno cose attinenti, insomma. Film porno? Potete capire. Sì, porno, erotici, qualcosa che comunque pure. Tende a stuzzicare un pochettino. Dunque, ci sono posti, chi può entrare? Chi può entrare? Uomini può singoli, entrare. Naturalmente, poi? Allora, posso entrare solamente uomini, chiaramente maggiorenni. Sì. E quindi niente. Le donne chi sono? Prostitute? Allora, se è un particolare, diciamo che sì. Tutti quelli che entrano, sia uomini sia donne, sono dei clienti. Mm. Quindi per quanto riguarda gli uomini abbiamo dei clienti normali, mentre le donne devono essere registrate in Austria come lavoratrici di questo ambito. Del sesso, devono essere sì. Quindi prostitute, ok? Sì. Devono essere dove sentite, okay, devono ma essere... Ok, niente, ma insomma comunque ok. È regolare, loro... è normale, è tutto, vedi, normale. Tutte le donne che entrano in questo locale devono essere prostitute registrate. Esatto, cioè, pagano non... le tasse, sono controllate dallo Stato ma austriaco. Cosa c'è di più? Cosa c'è? Noi diamo soldi, regaliamo sì, i soldi all'Austria, che si muova Confindustria, si muova Confindustria. Il nostro amico lì del Friuli, amico nostro... Scrive l'attore Riccardo Rossi, siete due geni, non capisco. Cosa si riferisce? No, ma scusa, io dico solo una cosa, no? Cioè, che si muova il nostro amico di Confindustria con cui ho parlato l'altro giorno al telefono, quello che ci aveva attaccato e poi è venuto al telefono con me e ha detto: no, ma voi siete bravissimi, eccetera, eccetera. Quello di Pordenone, si muova ma per allora, portare Giuseppe, questa realtà dire... in Italia. Basta, stai, si muova. Cosa vuoi portare questa porcheria? Noi però non siamo in grado di gestire una cosa del genere. Ah, ci spiego subito. Che senso? Allora, per l'Italia queste dici, cose l'Italia. Così borderline, sì. Dobbiamo no, borderline, avere un bordello. Amico mio, sì. Adesso non facciamo la cosa. Gestire avere... una fabbrica è complicato. Perché non siamo in grado? Bisogna essere inaccessibili in tutto. Perché se non facciamo l'italiana, cioè che siamo un po' alla corona massiva, tutto bene, salta fuori un macello. C'è da dire una cosa. Ecco. Noi attualmente non ce la faremo a gestirlo. Perché in Austria è tutto quanto perfetto, è sì tutto o no? Cioè non in Italia sarebbe no, un casino, no, dici tu? No, non è un casino vero e proprio in tutti i sensi. Vabbè, però adesso non ci possiamo arrendere di fronte a questa cosa. Però spiegami una cosa, allora, le donne possono entrare qualche volta così se non sono puttane? Cioè no. Uno si può portare allora, la moglie, no, per esempio? Allora, noi abbiamo una stanza dedicata che è esterna, quindi al club, sì. Quindi una VIP room nella quale possono accedere le coppie, quindi ad esempio una coppia sposata. Buono, però buono. Le donne che non sono lavoratrici non possono accedere al club, perché altrimenti ci potrebbe scusa, in questa stanza porti. VIP dedicata possono stanza accedere VIP. Coppie tra coppie che fanno ma tu ti rendi che conto succede del degrado di questa roba il degrado ti rendi conto o no? accede la coppia, va dentro praticamente l'uomo nel club, pesca una ragazza, pesca una ragazza, ma che linguaggio è? Ma cosa vuol dire normale pesca? Ma quello è merce, è normale, un dout des, è normale, è linguaggio normale. Non interviene neanche la filippina che l'ho mandata un po' in vacanza, mi scuso. In maniera semplice, mettiamo in maniera semplice. Ma pesca, aspetta, questa coppia qua. Una coppia normale, secondo lei, una coppia viene, no? Normale, lei dice normale, vabbè, diciamo una coppia sposata, d'accordo? Due a caso, uno si chiama David, uno si chiama Natale. Due adesso, ma che è una porcheria, lascia stare. Diciamo, due persone vengono lì. Vengono lì, vanno in questa sala VIP. Sì, sala VIP. Vabbè, cioè, questo mi fa girare, guardi, santissimi. Arriva, poi lui esce, pesca una ragazza. Sì, è corretto quello che dice. Anche due, anche due, anche due, sì, un caravan, anche cinque. Bene, pesca cinque ragazze da lì. Le porta dentro questa sala VIP. Cosa succede poi in questa sala VIP? Cosa scopano? Noi non vogliamo sapere niente. Quindi quello che intercorre tra cliente e la ragazza. Vabbè, però insomma, si può intuire. Beh, chiaramente si può intuire. Ma la donna che può partecipare o no a quel punto, la moglie? Ma così gliene frega lui? Dentro la sala VIP. Dentro la sala VIP possono fare di tutto. Esatto. Capirai. È una cosa molto richiesta. Quanto costa tutto questo? Molto richiesto, tutto molto allora, richiesto. Diciamo che l'accesso al club costa 85 euro per la giornata completa. Sì. Quindi c'è pranzo e cena pubblicato. Ma c'è gente che inizia... Mi viene da vomitare, c'è pranzo e cena. Ma perché non puoi mangiare, scusa? Ma ti pare che uno va in sta porcheria, pranzo e cena, come vado al ristorante, vado... Dimmi la verità. Effettivamente forse avete le idee un po' confuse. Ma è lui che ce l'ha confuso. Questo è un centro di 7000 metri quadrati, centro di lusso. Certo. C'è un ristorante vero e proprio. Ma certo. Stiamo parlando di un vecchio bordello. Ma certo, amico mio, ma siamo su un altro livello lì. Ah, chiedo scusa. Esatto, chiedo scusa. Il Welcome è una chiave innovativa di questo settore. Va tutto. Bene, scusa un attimo, amico mio, però, certo. Cristiano, qual è la grande innovazione che c'è? Oltre al fatto che si scopa, gli oggetti si possono affittare? Scusami? Si possono affittare oggetti, vibratori, cose del genere? No, assolutamente no. Sono le ragazze e volendo, insomma, si può... intrattenere con loro. No, con il Welcome, comunque, a differenza degli altri, come ti dicevo, sì, è stato il primo ad avere all'interno anche un hotel. Ah, quindi uno primo un hotel, pure l'hotel dentro. Sì, uno ci fa la vacanza, ma c'è gente che passa tipo tutta c'è gente che passa tutta la giornata lì. Dove vai a Natale, Carlo? Allora, ma io vado a Ortisei e tu in un bordello, guarda, con mia moglie, ma ti pare normale? Giuseppe, ti dico questo, l'anno scorso abbiamo chiuso con 70.000 presenze, 70.000. Amico mio. E quindi una macchina da guerra. Dove vai tu, Carlo, a Natale? Ma sai, io a Natale vado a Betlemme e tu in un bordello. Sì. Ma ti sembra normale? No, sotto le feste non mi conviene venire perché è pienissimo. Sotto le feste, c'è gente che sì. Anche a Natale? A Natale è aperto, ma ecco, vedi, l'unico giorno in cui sono chiusi è la vigilia di Natale. Perché in Austria la vigilia è molto importante, però molto. Tutti gli altri giorni. Il giorno dopo aperto. Ci vanno. Ecco, scusa un attimo, 85 euro, poi la singola scopata quanto costa? Allora, lì devo alzare le mani perché siamo in Italia, quindi non posso dirlo perché sono cose che sono tra le ragazze. Che c'è? Questa è in Austria. Questa è in Austria, che vuol dire? Cioè, io sono in Italia. No, e ma più o meno. Ma che ti fa? Non ci fa niente nessuno, che sei impazzito. Ma non ho capito. Qua, costa meno d'entrata, meno d'entrata. Meno, una sì, mezz'oretta di chiacchiere costa 60 meno. 60 euro più o meno, 60-70 euro. Diciamo che non è facile. Ma il massimo che uno ha speso là, questo me lo puoi dire. Cioè, la cifra massima che hai visto spendere lì, quanto è stato? Ma tranquillamente le cifre possono essere anche a 5.000-10.000 euro per un pomeriggio. C'è gente che passa lì e spende 5.000 euro? Ma sì, ma come, che per 5.000 euro che devi fare, ragazzi? Ma devi scopare come un dannato, tra tutto, dici no, oddio, tu. Oddio, ci sono poi tutti i vizi, cioè se uno guarda, vuole andare lì gente, però scusami, per cominciare c'è un nostro ascoltatore storico che mi ha detto, sto mangiando con mia mamma che è disgustata, vergognatevi i maiali, ha ragione. Ma che cosa, perché cosa? Questo mio amico, carissimo, ma che cosa? Mi dice, sta ascoltando la radio. E chi se ne frega della madre? Evidentemente ha detto alla madre, guarda, c'è questo mio amico, Parenzo, che fa una tradizione, la madre gentilmente ha detto, ma sentiamo. Ma la madre, sto mangiando, pensasse alla minestrina, pensasse alla minestrina, maiali, la madre pensasse basta, alla minestrina. Pensa, noi stiamo descrivendo un grande fenomeno, un grandissimo fenomeno economico, politico, sociale. Viva questa, Riccardo Rossi che ci libertà, ha chiamato prima. Beh, libertà. Che vengono lì, vogliono entrare, vogliono lavorare e vengono a questo rito. Libertà, quindi, altro che la mamma, ma mangiasse la minestrina la madre. Ma chi se ne frega, mangiasse la minestrina. L'abbraccio forte. Educatissima la signora. Tutte le ragazze che arrivano devono arrivare o da sole o in taxi, non possono essere accompagnate, onde evitare sfruttamento ma o induzione. Ma questo però può tantissime essere sfruttata regole. Fino a 10 metri prima, cioè non è che... Ma no, vabbè. Ciao Cristiano, ti abbraccio, ciao, ciao, viva la libertà, ciao.